sans amisato e le che susi di coloia bolingo dio li cambo nana nanyo na bungi si bolingo na comi me cole la lela li cambo nana nanyo na bungi si bolingo na comi me cole la lela. Oh, Yuna.